ed è il suono che arriva da Chiavari. Io l'ho sempre spinto, il suono che combino arriva e poi non è mai finto. Una rima più che vera, il rap della Riviera, con Radio XXX vedi la gente che sclera. Un pezzo al mese già era figo, ma uno alla settimana è ancora più figo. Poi in diretta, 1, 2, 3. Questo qua è il salotto di Bimè. Le ossarotte, le moretti, le direte. E poi senza mixer, oh cazzo non si può fare. Ha, cazzo non si può fare. Tutto così pensato, un po' campato in aria. Poi adesso vino passa buona, così che rappresenta pure la nostra zona. Ha, ci vediamo domani, tutti quanti tireranno sulle mani. Un pezzo al mese già era figo, ma uno alla settimana è ancora più figo. Poi in diretta a Bino, guarda chi c'è, dei link da pompare, muovi la testa, man. È Radio XXX, XXX, è Radio XXX, XXX, è Radio XXX, XXX. Che cazzo? No, metti il posto con le cazzo di doppie voci, se non si capisce niente.